Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo tredicesimo. Quinta meditazione. La morte. Preparazione. Primo. Mettiti alla presenza di Dio. Secondo. Chiedigli l'aiuto della grazia. Terzo. Immagina di essere gravemente ammalata, sul letto di morte, senza speranza di cavartela. Considerazioni. Primo. Pensa a quanto sia incerto il giorno della tua morte. Anima mia, un giorno tu uscirai da questo corpo. Quando? In inverno o in estate, in città o in campagna, di giorno o di notte, all'improvviso o con un preavviso. Sarà per malattia o per incidente. Avrai il tempo di confessarti oppure no. Avrai vicino il tuo confessore, il tuo padre spirituale. Di tutto ciò non ne sai proprio nulla. L'unica cosa certa è che moriremo tutti, e prima di quanto pensiamo. Secondo, pensa che in quel momento, per quello che riguarda te, il mondo finirà. Per te sarà proprio finita. Ai tuoi occhi tutto si capovolgerà. Sì, perché i piaceri, le vanità, le gioie del mondo, gli affetti inutili, ti sembreranno fantasmi, nebbia. Ti accorgerai allora come sei stata sciocca ad offendere Dio per quelle insussaggini, per quelle chimere. Vedrai che quando abbiamo lasciato Dio, lo abbiamo fatto per un nulla. Per contro, tanto dolci e desiderabili ti sembreranno la devozione e le opere buone. Ma perché non ho percorso quella via bella e piacevole? In quel momento i tuoi peccati, che ti sembravano peccatucci, li vedrai ingigantiti come montagne, e la tua devozione ti sembrerà piccola, molto piccola. Terzo. Pensa agli addii senza fine, pieni di languore, che la tua anima darà alle cose di questo basso mondo. Addio alle ricchezze, addio alle vanità, alle compagnie melense, ai piaceri, ai passatempi. Addio agli amici e ai vicini, ai genitori, ai figli, al marito e alla moglie. Per farla breve, addio a tutti. E per chiudere, al tuo corpo, che dovrai abbandonare esangue, smunto, emaciato, schifoso e maleodorante. Quarto, pensa alla fretta che avranno di prendere il tuo corpo e nasconderlo sottoterra. Ciò fatto, la gente non penserà più o quasi a te, non se ne ricorderanno più, come del resto tu hai fatto per gli altri. Si dirà: Dio lo abbia in pace. Amen. tu morte fai seriamente. Sei impietosa. Quinto. Pensa che una volta uscita dal corpo, l'anima prende il suo posto, o a destra o a sinistra. Tu dove andrai? Che strada prenderai? Non dimenticare che sarà la stessa nella quale ti sei incamminata in questo mondo. Affetti e risoluzioni. Primo. Prega Dio e gettati tra le sue braccia. Signore, in quel giorno terribile, accoglimi sotto la tua protezione. Rendimi quel momento felice e favorevole, a costo di rendere tutti gli altri della mia vita tristi e segnati dalla sofferenza. Secondo, disprezza il mondo. O mondo, giacché non mi è dato riconoscere l'ora in cui dovrò lasciarti, ho deciso di non legarmi a te. Amici miei, cari colleghi, permettetemi di volervi bene solo con un'amicizia santa che possa durare eternamente. Infatti, perché dovrei contrarre con voi un legame che poi dovrà essere troncato? Terzo. Voglio prepararmi a quell'ora e prendere le opportune precauzioni per compiere felicemente quel passo. Con tutte le mie facoltà voglio mettere ordine nella mia coscienza e porre fine a certe manchevolezze. Conclusione. Ringrazia Dio dei propositi che ti ha dato la forza di concepire. Offrili alla Sua Maestà. Prega lo stesso che ti conceda una morte beata per i meriti di quella del Figlio. Chiedi l'aiuto della Vergine e dei Santi. Pater, Ave Maria. Componi un mazzetto di mirra. Capitolo 14, sesta meditazione, il giudizio. Preparazione. Primo, mettiti davanti a Dio. Secondo, pregalo di ispirarti. Considerazioni. Dopo il tempo segnato da Dio per la durata di questo mondo, preceduta da un gran numero di segni e di prodigi spaventosi, tali da raggelare gli uomini per lo spavento ed il terrore, verrà la fine. Scenderà dal cielo un diluvio di fuoco che brucerà e ridurrà in cenere tutta la faccia della terra, senza risparmiare nulla di quanto vediamo su di essa. Dopo questo diluvio di fiamme e di terrificanti fenomeni celesti, tutti gli uomini non ancora risorti riprenderanno il loro corpo dalla terra. E alla voce dell'arcangelo si raduneranno nella valle di Giosafat. Ma con quale differenza? Gli uni splenderanno in un corpo glorioso, gli altri saranno orribili in un corpo ripugnante. Secondo. Considera la maestà con la quale apparirà il giudice supremo, circondato dagli angeli e dei santi, preceduto dalla croce, segno di grazia per i buoni e di castigo per i cattivi, e più splendente del sole. Terzo, quel giudice supremo con un ordine senza appello, che verrà subito eseguito, separerà i buoni dai cattivi. Metterà i primi alla sua destra, gli altri alla sua sinistra, e sarà una separazione eterna, dopo la quale i due settori mai più si incontreranno. quarto. Operata la separazione e dischiuse le coscienze, apparirà con chiarezza la perversità dei cattivi e il loro disprezzo per il Dio. Dall'altra parte si vedrà la penitenza dei buoni e gli effetti prodotti in essi dalla grazia di Dio. Nulla rimarrà nascosto. Mio Dio, quale confusione per gli uni e quale consolazione per gli altri. Quinto. Pensa all'ultima condanna dei cattivi. Andate, maledetti, al fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi compagni. Pesa queste parole così gravi. Andate, dice, è la condanna all'abbandono eterno di quei disgraziati da parte di Dio. Quei miserabili saranno per sempre privati della contemplazione del suo volto. E li chiama maledetti. Anima mia, quale maledizione! Una maledizione totale che include tutti i mali. Maledizione senza appello e che abbraccia tutta l'eternità. E aggiunge al fuoco eterno. Pensa, cuor mio, che cosa significa eternità. Eterna eternità dei supplizi. Quanto devi essere terribile. Considera poi la sentenza per i buoni. Venite, dice il giudice. È la parola consolante di salvezza, per mezzo della quale Dio ci attira a sé e ci pone nel mondo della sua bontà. Benedetti del Padre mio. O cara benedizione, che tutte le include. Prendete possesso del regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Quale grande grazia, mio Dio, perché quel regno non avrà mai fine. Affetti e propositi. Primo. Trema, anima mia, a questo pensiero. Mio Dio, chi può darmi sicurezza per quel giorno in cui le fondamenta del cielo tremeranno per lo spavento? Secondo. Detesta i tuoi peccati, i soli che possono darti motivo di terrore in quel giorno spaventoso. Terzo. Voglio ora giudicarmi da sola, per non esserlo in quel giorno. Voglio esaminare la mia coscienza e condannarmi, accusarmi e correggermi, perché in quel giorno non sia il giudice a condannarmi. Mi confesserò e accetterò i consigli opportuni. Conclusione. Primo. Ringrazia Dio che ti ha dato modo di metterti al sicuro per quel giorno e ti ha concesso tempo per la penitenza. Secondo, offrigli il tuo cuore e fa una seria penitenza. Terzo, pregalo di farti la grazia di portarla a compimento come si deve. Pater Noster, Ave Maria. Componi un mazzetto spirituale. Capitolo quindicesimo. Settima meditazione. L'inferno. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, umiliati e domanda la sua assistenza. Terzo, immagina una città tenebrosa, affogata in un'atmosfera asfissiante di zolfo infiammato e pece nauseante. In quello scenario, immagina un brulichio di cittadini che non possono uscirne. Considerazioni. Primo. I dannati all'inferno sono come prigionieri senza scampo in quella città disgraziata. I loro sensi, tutte le loro membra, sono sottoposti ad indicibili tormenti. Hanno infatti usato le loro membra con i loro sensi per peccare. Per questo, nei loro sensi e nelle loro membra, pagano la pena dovuta al peccato. Gli occhi, per gli sguardi perversi e maliziosi, soffriranno l'orribile vista dei diavoli e dell'inferno. Le orecchie, che si sono compiaciute dei discorsi licenziosi, udranno per l'eternità pianti, lamenti, grida di disperazione. E così di seguito. Secondo, oltre a questi tormenti c'è poi quello che tutti li supera, ed è la privazione e la perdita della vista di Dio, dalla quale sono esclusi per sempre. Se a Salonne trovava che la perdita della vista di suo padre Davide era più dura da sopportare dell'esilio, quale tormento sarà mai essere privati per sempre della vista del dolce e soave volto di Dio? Terzo, pensa soprattutto all'eternità di quelle pene. Da sola rende l'inferno insopportabile. Se una pulce in un orecchio o l'alterazione di una febbriciattola rendono una breve notte così lunga e tormentosa, pensa a quanto deve essere spaventosa la notte dell'eternità con tanti tormenti. Da quell'eternità nascono la più nera disperazione, le bestemmie e una rabbia senza fine. Affetti e propositi. Primo. Spaventa la tua anima con le parole di Isaia. O anima mia, come potrai vivere eternamente con quelle fiamme inestinguibili dentro a quel fuoco che divora? Perché vuoi abbandonare per sempre il tuo Dio? Secondo, riconosci di averlo meritato e tante volte. Ora voglio incamminarmi in senso contrario. Perché dovrei sprofondare in quell'abisso? Terzo, farò dunque ogni sforzo per evitare il peccato, sola causa possibile di quella morte eterna. Ringrazia, offri e prega. Capitolo sedicesimo. Ottava meditazione. Il paradiso. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, invocalo. Considerazioni. Primo. Immagina una bella notte serena. Contempla il cielo costellato di miriadi di stelle, diverse una dall'altra. Aggiungi a quella meraviglia la bellezza di una magnifica giornata, in cui lo splendore delle sole non tolga la nitida vista delle stelle e della luna. E poi di pure tranquillamente che tutte quelle bellezze sono niente a confronto del paradiso. È un luogo desiderabile e amabile come nessun altro, una città senza confronti. Secondo, pensa alla nobiltà, alla bellezza, alla moltitudine dei cittadini abitanti in quella città felice. Milioni e milioni di angeli, di cherubini, di serafini, il gruppo degli apostoli, i martiri, i confessori, le vergini, le madri di famiglia. Sono innumerevoli. È una compagnia impareggiabile. Il più piccolo di loro è più bello alla vista di tutto il mondo messo insieme. Immagina la gioia nel contemplarli tutti contemporaneamente. Sono felici. Cantano senza sosta l'inno dell'amore eterno. Godono di una gioia ininterrotta. Scambievolmente provano nel vedersi un piacere inesprimibile e vivono nella sicurezza di una società felice, indivisibile. Infine, pensa al bene sommo di cui tutti insieme godono. La vista di Dio che li gratifica per l'eternità del suo sguardo pieno di amore, travolgendo i loro cuori in un abisso di piacere. È un bene senza pari, l'essere uniti al proprio principio. Sono simili ad uccelli spensierati che volano e cantano eternamente nel cielo della divinità, un cielo che li colma di piaceri inesprimibili. E ciascuno, senza invidia, canta al suo meglio le lodi del Creatore. Sia tu benedetto per sempre, o dolce Creatore e Salvatore, perché sei buono e ci comunichi con tanta generosità la tua gloria. Di rimando, Dio benedice con una benedizione eterna i suoi santi. Siate benedetti per sempre, mie care creature, che per avermi servito con coraggio, mi loderete eternamente con amore. Affetti e propositi. Primo, ammira e loda la patria celeste. Come sei bella, celeste Gerusalemme, e beati sono i tuoi abitanti. Secondo, rimprovera il tuo cuore per il poco coraggio dimostrato finora, per essersi tanto allontanato dal cammino verso quella dimora di gloria. Perché mi sono allontanata tanto dal mio sommo bene? Miserabile come sono, l'ho fatto solo per piaceri insulsi, leggeri, abbandonando delizie mille volte maggiori. Come ho fatto a disprezzare beni tanto desiderabili per desideri così meschini che non meritavano alcuna attenzione? Terzo, desidera con forza di giungere a quella beata dimora. Mio buono e supremo Signore, poiché hai voluto guidare di nuovo i miei passi sul cammino che porta a te, ti prometto che mai più tornerò indietro. Camminiamo, cara anima mia, camminiamo verso quella pace infinita, camminiamo verso quella terra benedetta a noi promessa. Che cosa ci facciamo qui, in Egitto? Quarto. Mi terrò lontano da tutto ciò che potrebbe distogliermi da questo cammino o ritardarlo. Quinto, farò invece tutto quello che mi può favorire nell'incamminarmi in esso. Ringrazia, offri e prega. Capitolo 17, nona meditazione. Elezione e scelta del paradiso. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, umiliati davanti a Lui e pregalo che ti ispiri. Considerazioni. Immagina di essere in aperta campagna, sola con il tuo angelo, come il giovane Tobia. Immagina che l'angelo ti inviti alla contemplazione del paradiso, spalancato in alto davanti a te. Tu vi scorgi tutte le cose belle sulle quali abbiamo già meditato. In basso poi ti fa vedere la voragine dell'inferno, anch'essa spalancata davanti a te, con tutti i tormenti che ti ho descritto quando ti ho guidato alla meditazione dell'inferno. Dopo aver immaginato questa doppia visione, mettiti in ginocchio davanti al tuo angelo. Pensa quanto sia vero che tu ti trovi tra il paradiso e l'inferno, come pure è vero che l'uno e l'altro sono spalancati per riceverti, secondo la scelta che tu farai. Pensa che la scelta che farai dell'uno o dell'altro in questo mondo durerà eternamente nell'altro. Pensa anche che, pur essendo entrambi spalancati per accoglierti, secondo la tua scelta, e la sanzione della giustizia di Dio o della sua misericordia, tuttavia Dio desidera, come un desiderio senza pari, che tu scelga il paradiso. E l'angelo che ti fa pressioni nello stesso senso e ti offre da parte di Dio mille grazie, mille aiuti per salire. Cristo Gesù, dall'alto del cielo, ti guarda con amore e ti invita con dolcezza. Vieni, anima diletta, riposati eternamente tra le braccia della mia bontà, che ti ha preparato delizie immortali nel suo amore generoso per te. Contempla con gli occhi dell'anima la Vergine Santa che ti invita con amore di madre. Coraggio, figlia mia. Non ignorare i desideri del mio Gesù, le preghiere che gli rivolgo per te, perché voglio con Lui la tua salvezza eterna. Da uno sguardo ai santi che ti incoraggiano e un altro milione di anime che ti invita con dolcezza e vuole solo vederti un giorno unita a loro nella lode eterna di Dio. E ti garantiscono che il cammino verso il cielo non è poi così difficile come vuol far credere il mondo. Ti dicono: coraggio, amica. Chi valuta bene il cammino della devozione per il quale siamo saliti, scoprirà che siamo giunti a queste delizie attraverso altre delizie, infinitamente più dolci di quelle del mondo. Scelta. Primo. O inferno, io ti detesto per sempre. Detesto i tuoi supplizi. Detesto i tuoi tormenti, detesto la tua eternità di maledizione e di infelicità. Soprattutto, odio le tue eterne imprecazioni e bestemmie che scagli contro il mio Dio. Rivolgo il cuore e l'anima dalla tua parte, o beato paradiso, gloria eterna, felicità senza fine. E leggo per sempre, irrevocabilmente, la mia dimora nelle tue belle case, nei tuoi santi e desiderabili tabernacoli. Mio Dio, benedico la tua misericordia ed accetto l'offerta che me ne fai. Gesù Salvatore, accetto il tuo amore eterno, avallo l'acquisto del posto che tu hai fatto per me in quella beata Gerusalemme, solo per amarti e benedirti per sempre. Secondo, accetta i favori che la Vergine e i Santi ti offrono. Prometti loro di seguirli nello stesso cammino. Tendi la mano al tuo angelo perché ti guidi. Incoraggia la tua anima a questa scelta. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales.